oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Violenta, così sono entrata, hai visto, Francesco? Hai fatto bene, quando ci vuole ci vuole. Oh, un colpo di vita. Certo. Francesco, buongiorno. Ciao, ciao, ciao a tutti. Oltre la crisi, siamo senza Willy anche oggi, che salutiamo, va. Ciao Willy. Ciao Willy, Francesco Campione in studio con me. E partiamo subito da dove eravamo rimasti la volta scorsa. La volta scorsa parlavamo di questa madre che in piena crisi, in piena disagio per insomma una serie di questioni di vita, tra cui essere lasciata e trovarsi con tre bambine, l'aveva veramente messa in difficoltà, insomma è arrivata ad uccidere le sue bambine e avevamo ragionato su tutta una serie di cose. Era rimasto un messaggino che era arrivato sul cosiddetto filo di lana e abbiamo detto anche che saremmo oggi ripartiti da lì, Francesco, e quindi io te lo leggo. È un messaggio di Stefania che dice: credo che la storia, meglio dire le storie, come il patrimonio culturale, servano soprattutto ai giovani per capire come l'uomo ricostruisce e riordina il fluire della vita e come costruisce modelli culturali che questa vita determinano. Se ne diventiamo consapevoli, possiamo provare a costruire un futuro in base a ciò che oggi crediamo giusto. Perché eravamo proprio arrivati anche al discorso del valore della storia e del tu dicevi la storia non insegna in realtà. Sì, sarebbe bello che fosse vero quello che dice Stefania, sarebbe molto bello, purtroppo spesso non è così, cioè purtroppo spesso si ha, per esempio quando c'è un evento tragico della vita, come quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, o un evento di crisi qualunque, di solito si tratta di fratture, di qualcosa che interrompe le storie, di qualcosa che determina un prima e un dopo, determina delle svolte che possono essere, che si rischiano di essere negative naturalmente, ma che potrebbero essere anche positive, cioè che potrebbero portare le persone che hanno vissuto queste situazioni ad andare oltre la propria storia, cioè a cambiare, cioè in definitiva l'elemento di consolazione è questo che noi spesso vediamo come dopo anni di tribolazione, dopo quando una crisi si supera, poi ci rendiamo conto che un po' è servita. Ecco, questo è la scommessa umana che probabilmente è alla base della costruzione di una storia, è quello di, dopo una qualcosa che interrompe la storia, di far iniziare un'altra storia, perché gli eventi critici sono gli eventi che interrompono la storia. Allora se noi siamo in grado di far incominciare un'altra storia, siamo in grado di trasformare il male della crisi in un bene futuro. Questo naturalmente non sempre è possibile, ma è la scommessa dell'uomo. Appunto, è la scommessa dell'uomo. Devo dire che però davanti a eventi come quello che affrontavamo l'altra volta, poi ricostruire una storia non è proprio così semplice, perché ciò che è accaduto ha un peso inenarrabile. Sì, ha un peso che spesso, come dire, le persone non reggono, vengono schiacciate le persone, no? E da questo punto di vista qui bisogna evocare l'altro elemento di positivo, e cioè il fatto che qualcuno ci accompagni, che qualcuno che non ha vissuto direttamente quello che abbiamo vissuto noi e che ci potrebbe schiacciare, ci aiuti, ci sopporti, ci sostenga, sia solidale, si dedichi un po' a noi che abbiamo bisogno di essere sostenuti. Ecco, questo è l'altro punto. Non bisogna immaginare, perché certe volte in un mondo, in una cultura individualistica come la nostra, si immagina che poter iniziare un'altra storia, sormontare un evento che interrompe la propria storia e che potrebbe schiacciarci, si immagina che si debba fare individualmente. Spesso individualmente questo non è possibile. Francesco, ricordiamo intanto i nostri contatti, perché così anche i nostri ascoltatori possono continuare a interagire con noi. Per i vostri sms il 333 180 94 94, mentre se volete intervenire in diretta 051 346458. C'è sempre la mail a cui potete scrivere amicidirivivere@gmail.com. Così intanto io vorrei cominciare a spostarci invece verso la trasmissione di oggi, perché in questi giorni riflettevo sul fatto che ormai noi abbiamo toccato vari argomenti di stati di crisi, che vanno dalla situazione migrante al bullismo, alla violenza sulle donne, alla questione della perdita del lavoro oppure della cassa integrazione. Insomma, abbiamo affrontato tutta una serie di stati di disagio e molto spesso io ti ho sentito dire a metà o a fine trasmissione come, diciamo, cosa a cui tendere: la ricerca del bene e la ricerca della pace, e quindi la calmierare il conflitto e l'aggressività. Però la domanda che mi viene spontanea è: come mai tutte le volte che noi abbiamo affrontato stati di crisi completamente diversi tra di loro, peraltro, però la prima reazione che salta fuori è quella della rabbia, che poi si trasforma in aggressività? Ho notato questa cosa qui. Molto spesso la prima reazione è quella, è una reazione istintiva, è perché si scatena prima di tutto l'aggressività. Ma questo, dunque, che gli psicologi da tempo si interrogano su questo, direi che una cosa, una delle verità in qualche modo che si possono applicare a questo argomento, per rispondere alla domanda che tu fai, è che ogni colpo che subiamo ci umilia, ci riduce come esseri umani, e tutti i sentimenti di diminuzio, di umiliazione, di tutti i colpi che subiamo in qualche modo tendono ad essere rifiutati, e del rifiuto fa parte un aspetto di rabbia, di aggressività, no? Quindi credo che sia il problema che ci sono tutta una serie di eventi, il male, fra virgolette, quello che abbiamo, che possiamo chiamare il male in generale, noi giustamente lo rifiutiamo. Purtroppo però, quando, come dire, il rifiuto si scontra con una realtà, cioè quando rifiutiamo qualcosa che non è possibile eliminare perché è già avvenuto, no? Noi ci sentiamo impotenti e umiliati, sottoposti a un trattamento ingiusto da parte del destino, e tutte le volte che ci sentiamo così noi diciamo no, e questo dire no è un no violento, un no aggressivo, un no indignato, un no rabbioso, no? E questo purtroppo, invece di aiutarci a superare la crisi, spesso ostacola il superamento della crisi, la rabbia. Perché la rabbia in qualche modo è come se, subendo una violenza, ci facessimo, per respingere l'umiliazione che questa determina, ci facessimo attori di un'ulteriore violenza, innescando quel processo, quel circolo vizioso, appunto, della storia, che è alla base del fatto che dalla storia non si impara niente. Cioè che se si innesca quel circolo vizioso, a una crisi di violenza segue un'altra violenza, ma nei confronti di qualcun altro ovviamente, ma non è che la violenza subita si cancella. Semplicemente l'esempio più esplicito di questo è l'esempio della vendetta. Quando è che basta una vendetta? Adesso ti spiego perché ho sorriso quando hai detto vendetta, perché per fare il primo stacco musicale ho preparato un brano che è contenuto nella colonna sonora del film V per Vendetta ed è I Found a Reason di Cat Power, quindi andiamo a sentircelo e poi torniamo. Sembra fatta apposta. Sì, sembrava fatta apposta e non ce l'eravamo detto. Assolutamente. Assolutamente. Diretta, Francesco. Allora, abbiamo sentito I Found a Reason, tu hai nominato la vendetta prima, ma la vendetta verso chi? Allora, mi spiego meglio. Sentimento di vendetta nei confronti della situazione che ci mette in crisi o situazione o sentimento di vendetta verso noi stessi che non ci perdoniamo, passami il termine, di essere andati in crisi? Beh sì, la vendetta fondamentalmente quando è la via d'uscita che ci sembra di poter trovare nelle situazioni inaccettabili, ha grosso modo tre destinatari: il destino o Dio, gli altri o noi stessi, a seconda di dove mettiamo la responsabilità o la colpa di quello che ci è accaduto. Se non riscontriamo di avere nessuna colpa, che nessun altro possa aver fatto quello che possa averci colpito, aver fatto quello che ci fa star male, ce la prendiamo con Dio o col destino, a seconda che siamo credenti oppure che siamo non credenti, a seconda che siamo cristiani o pagani, no? Ce la prendiamo con il problema è che vendicarsi con gli altri è possibile, anche se non si conclude mai niente. Vendicarsi con se stessi è più difficile, anche se non si conclude mai niente. Vendicarsi col destino e col Dio non si conclude niente, ma non è neanche possibile. Sì, quindi proprio è il peggio che si possa fare è quello di pensare a una vendetta in quel senso. Ma il punto è questo, però, che passaggio bisogna fare allora perché se abbiamo appena detto che la reazione aggressiva è comunque il primo fuoco, diciamo, che si scatena. Sì, perché c'è un rifiuto. Quando dici no a qualcosa che ti violenta, dici un no violento. Non dici un no tranquillo, calmo, dolce, simpatico. Dici un no rifiutante, appunto, no? E quindi il problema è, siccome però quell'aggressività non te la puoi ingoiare, ecco, per esempio, una via è quella di dire tu reprimi la tua aggressività, ma se reprimi l'aggressività vuol dire che non esplodi ma implodi, cioè l'aggressività ti scoppia dentro, non hai concluso molto. Cioè, quando non puoi esprimere l'aggressività verso l'esterno, l'aggressività, la rabbia che hai, ti esplode dentro. Quindi, cioè, come dire, questa via, la via della repressione, non va bene. Una via, come dire, la via maestra della cultura, di tutte le culture, è quella di, come dire, giustificare l'aggressività, razionalizzarla, sublimarla e quindi in qualche modo trasformarla in una forza positiva, no? Ecco, per esempio, molta... facci degli esempi concreti. L'esempio classico che ha riempito di sé il secolo scorso si chiama violenza rivoluzionaria, no? Questo è l'esempio classico. La violenza rivoluzionaria è una violenza a cui si attribuisce il valore di un cambiamento positivo, quindi è una violenza, non so, una palingenesi, una cosa che cambia il mondo e lo migliora, qualcosa che instaura il bene cacciando via il male, per cui una società giusta è libera invece che una società ingiusta e oppressiva, eccetera eccetera. Cioè la violenza in questo caso diventa un mezzo per ottenere, tu sei, ce l'hai la violenza, ed è un'energia, l'importante è che tu la indirizzi, la incanali in una direzione buona, cioè facendo in modo che quell'energia produca un effetto positivo. Ora, questa via purtroppo, come dire, sembra bella dal punto di vista, così, quando si ragiona dialetticamente è molto bella, tant'è vero che, come dire, in certe epoche ha conquistato molti, sì. E continua a conquistare tanti, ecco, però purtroppo il problema è che non si è ancora scoperto, l'uomo non ha ancora scoperto il modo per evitare gli effetti collaterali della violenza buona. Per dire un esempio storico, no? La violenza del comunismo è buona nel senso che elimina le diseguaglianze, eccetera eccetera, però, come dire, lo stalinismo ha dovuto eliminare un tot di contadini russi, un tot di nobili, un tot di... cioè questi effetti collaterali sono difficilissimi da eliminare. Cioè, in definitiva, il problema è che nel momento in cui si cerca di fare, di trasformare la violenza e l'aggressività in qualcosa di buono, no? Si sbaglia sempre la misura. È difficile indovinare la misura, anche perché, come dire, perché ci fosse una misura, bisognerebbe che l'uomo fosse riuscito in una cosa che ancora non gli è riuscita, cioè nel governare la violenza. Il problema è che la violenza, quando scappa, non la governa più nessuno. Allora, questa strada, anche questa, si è dimostrata una strada non valida, purtroppo, perché appunto l'idea, anche la psicoanalisi da un certo punto di vista è come se ci suggerisse questa via, cioè il fatto di l'aggressività si supera non reprimendola ma esprimendola e incanalandola in un modo tale che diventi qualcosa di utile, di positivo, no? Però in concreto qui forse c'è bisogno di un aiuto, oppure è una cosa che una persona riesce a fare anche da sola. Cioè un processo che riesce a fare, è una strada che riesce a trovare anche da solo. No, c'è bisogno d'aiuto. Per esempio, c'è bisogno di qualcuno che si accolli la violenza residua, l'effetto collaterale, no? Cioè c'è bisogno di qualcuno che in qualche modo non si spaventi per il fatto che c'è una violenza in più rispetto a quella che sarebbe giusta per ottenere l'effetto positivo, e quella violenza in più bisogna in qualche modo appunto incanalarla, attenuarla, fare in modo che a sua volta, cioè ci vorrebbe, io dico sempre, ci sono quelli che hanno inventato le macchine desideranti, no? Io dico sempre che bisognerebbe inventare una macchina per fare in modo, per trasformare la violenza in una cosa positiva, che non avesse quel difetto che abbiamo noi, che ha la mente umana, che non ci riesce. Bisognerebbe inventare una macchina, sarebbe la più bella invenzione della storia, una macchina che trasformasse, tu ci infili dentro la tua violenza, dai un pugno e da quel pugno viene fuori un fiore, da quel pugno viene fuori una carezza, da quel pugno, cioè bisognerebbe inventare una macchina così, purtroppo ancora non siamo riusciti a inventarla. Quindi da questo punto di vista questa è una delle impotenze della nostra cultura, della cultura umana. La cultura umana ancora non è riuscita a gestire la violenza. La violenza, anche quella giusta, anche quella sacrosanta, anche quella che deriva da un'offesa che bisogna sanare, anche quella che deriva dalle ingiustizie che si subiscono, perché quando si subisce un'ingiustizia e ci si indigna, è chiaro che si prova anche dentro di sé il sentimento che è giusto colpire chi ti ha colpito, no? Però si finisce per colpire sempre di più l'altro e ci vorrebbe quella macchina lì. Allora, come dire, c'è un altro via, c'è un'altra via della cultura che consiste nel tentativo di assumersi la responsabilità della violenza. Cioè, come dire, se io non sto reggendo e io rifiuto e rifiuto violentemente l'umiliazione, e se da questo rifiuto violento deriva una violenza solo in parte giusta, perché farò del male in più, non ci riuscirò, questa è una mia responsabilità. Cioè, non è che io, il che vuol dire che se mi assumo la responsabilità non mi scateno. Non mi scateno, cioè capisco, e allora c'è l'altra via. Il filosofo Gorgia, che però è ripreso da Platone, diceva: meglio subire un'ingiustizia che farla. Meglio subirla che farla. Cioè, nel momento in cui io subisco un'ingiustizia, se mi assumo la responsabilità di quella ingiustizia, io la fermo. La fermo, però per fermarla devo un po' subirla. Non devo dire del tutto no alla violenza. Devo dire no alla violenza, ma devo dire sì alla responsabilità che ho rispetto a quella violenza, perché se reagisco alla violenza con un'altra violenza, passo dalla parte del torto, come direbbero, come si dice nel linguaggio quotidiano. Ho capito. Credo, però poi ci torniamo su questa cosa dell'incanalare la violenza. Adesso andiamo piano piano verso, anzi te la pongo subito la domanda, perché poi dopo però vorrei una risposta bella composita, perché tu dici la violenza si scatena, ma molto spesso si scatena anche verso le persone che non sono direttamente responsabili di quel disagio, anzi molto spesso si scatena verso le persone che ci sono vicine e che potrebbero invece darci una mano a fare quel percorso che dicevi tu di sublimazione e di presa di responsabilità. E qui io vorrei però parlarne in maniera più approfondita, cioè non mi basta una battuta. Va bene, ci rifletto. Quindi ci rifletti. E andiamo verso la pubblicità, poi un brano musicale e poi dopo rientriamo. Cento 103.1 Radio Città Fujiko. Mm-hmm. weigh the situation how you want. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. And that's the truth. Built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me, I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass a number and some lumber to pile. Then catch a curve from my kid. Won't show me love if I pray. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand between us. It ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like you think they should. It's all on you. It ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like you think they should. It's all on you. You see, them kids be scheming on what we done cop. Always off the scheming. Instead of feeding for the moment, they can get us off the block. Front, indeed, and nothing guaranteed. That's a lot say they wanna walk in my size 10s. Alright, then here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like dear heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze. I don't care about what thank you, De La Soul featured by Chaka Khan, All Good, cioè tutto bene, lo teniamo in sottofondo mentre diamo i nostri numeri, i nostri riferimenti, recapiti 333 180 94 94 per i vostri sms o whatsapp, oppure 051 34 64 58 se volete intervenire in diretta. Francesco, ti avevo lasciato con una domanda. Perché la V di vendetta o la V di violenza, chiamala, la A di aggressività, la maggior parte delle volte, anziché magari direzionarla nei confronti di chi o cosa ha scatenato la crisi, la indirizziamo invece nel nostro nucleo. Con il nostro nucleo intendo o verso noi stessi direttamente, oppure verso le persone che più ci sono vicine. È abbastanza usuale sentir dire che in un momento di crisi la cosa che va in crisi subito dopo è un rapporto di coppia, un rapporto familiare, un rapporto d'amicizia, cioè proprio i legami più stretti vengono sollecitati e provocati in un qualche modo. Sì, sì, sì, ma questo intanto, come dire, tu poi un primo punto è che tu quando non riesci a trovare in te stesso e nelle persone che ti stanno vicine il modo per superare quella condizione di crisi che ti ha fatto arrabbiare, tu ti arrabbi ancora di più e ti arrabbi anche con loro e ti arrabbi con te stesso. Per cui in qualche modo c'è, come dire, la rabbia dell'impotenza è l'impotente il più delle volte rivolge la rabbia contro di sé, perché non vorrebbe essere impotente, perché si attribuisce in qualche modo la colpa, no? Questo è un punto. L'altro punto è più banale, ma non bisogna sottovalutarlo, è molto più banale, però il problema dell'aggressività e della rabbia è che, come dire, devono sfogarsi, no? Per cui spesso ci prendono la mano, vanno per conto loro, è più forte di noi e ci sfoghiamo. E ci sfoghiamo naturalmente con noi stessi, con la nostra identità e con la nostra vita, e anche con la vita delle persone che ci sono vicine. Quindi sono due le ragioni per cui quello che dici tu si verifica. Uno è perché è come se chiedessimo a noi stessi e agli altri una soluzione che non viene, e quindi ce la prendiamo anche con loro e con noi stessi. Due, anche se non è così, in qualche modo la rabbia tende a sfogarsi. La rabbia è come un fiume in piena che, quando rompe gli argini, l'acqua si spande da tutte le parti. La rabbia è così. E non solo, ma noi sappiamo, ed è un fatto quasi biologico quello, quasi istintivo, noi sappiamo che se la tensione della rabbia si sfoga, stiamo meglio. Quindi, in definitiva, c'è come una specie di tendenza allo scarico della rabbia, dell'aggressività, che fa sì che si scarica dove può, e naturalmente si scarica con le situazioni, con se stessi e con gli altri più vicine. Questo... Così però si va a determinare che, va bene, avremo un frangente in cui staremo meglio perché abbiamo scaricato la rabbia, ma intanto abbiamo aperto un altro fronte di stato di crisi. Certo, a meno che gli altri, che ci vogliono bene, la nostra stessa identità, quando noi siamo autodistruttivi e rivolgiamo l'aggressività verso di noi per sfogarci, non ci comprendano, non ce lo facciano fare, sfogati pure, no? Ecco, per esempio, nel lavoro dello psicologo, ti dico una esperienza in cui questo si verifica. Nel lavoro dello psicologo, per esempio, noi quando assistiamo le persone che hanno avuto un lutto gravissimo, una mamma che ha perso un bambino piccolo, una situazione di perdita la più ingiusta, uno è stato travolto mentre camminava sulle strisce, un ragazzo, una bambina, la bambino che è stato ucciso là dalla camorra, gli hanno sparato, una cosa di una tremendamente ingiusta, terribile, così eccetera, tu sei arrabbiato col mondo e con tutti, vai dallo psicologo e scopri che c'è uno, lo psicologo, che ha imparato a farsi insultare senza dire niente. Cioè, dici, ma lei mi può capire, ma cosa vuole da me? Lasci perdere, chi cavolo mi può capire, cosa vuole? Cioè se la prendono, certo, con te. Allora, lì tu capisci che se tu glielo consenti, se tu hai le spalle abbastanza larghe, hai imparato a sostenere, a sopportare quella rabbia e a non arrabbiarti, cioè a non dire, come dicono tutti, ma che t'ho fatto io perché te la prendi con me, perché tutti dicono così, questo serve. Cioè, quindi, allora il problema è che spesso quello sfogo è controproducente, come dicevi tu, perché non si trovano contenitori negli altri abbastanza solidi da sostenere quello sfogo. Per cui, perché la maggior parte di noi non ha mica imparato a sostenere la rabbia. Tu vai a uno sportello, cioè succede nella vita quotidiana, vai a uno sportello di un ufficio, c'è un impiegato incazzatissimo perché lo stanno licenziando per i cavoli suoi, o perché la moglie lo ha tradito, o perché c'è, cioè, uno che lavora lì con una faccia terrificante che ti guarda come se fossi un mostro che chissà da dove stai uscendo, e appena tu apri bocca che dici ma gliel'avevo detto, ti insulta, ma che cosa è venuto a fare, così eccetera. Cioè la rabbia si sfoga verso di te, perché quello poveretto sta facendo quel lavoro e si sfogherà con quelli che arrivano là perché è più forte di lui, e tu dall'altra parte non hai imparato a sostenere quella cosa lì e dici scusi, ma lei perché se la prende con me, cosa le ho fatto io? Non le ho fatto niente. Ecco, allora lì, per esempio, una serie di persone, di ruoli, la mamma, il papà, i fratelli, il medico, il carabiniere, il poliziotto, la maestra, il giudice, eccetera, dovrebbero avere imparato a fare, a sostenere l'aggressività. Se ci fossero attorno a noi una quantità di queste persone, noi ci sfogheremmo, potremmo cioè esprimere la rabbia, e questo gioverebbe molto. Il fatto che non c'è nella nostra cultura, che invece è politicamente corretto dire che cosa vuoi, perché te la prendi con me, cioè la cosa politicamente corretta nella nostra cultura qual è? È che se uno se la prende con te perché tu gli hai fatto qualcosa, anche lì c'hai qualche problema, ma se almeno gli hai fatto qualcosa glielo permetti. Un motivo c'è, un motivo c'è. Ma se non gli hai fatto niente e uno si sfoga con te, è impossibile che tu in qualche modo accetti quel ruolo, cioè il ruolo di chi? Il ruolo del pompiere, dell'ammortizzatore, no? Il ruolo, se ci fossero gli ammortizzatori. Cioè, torna un po' il discorso che dicevi prima, viene vissuto come un'ingiustizia. Esatto, viene vissuto come un'ingiustizia. Che t'ho fatto io, perché te la prendi con me? Cioè, in realtà, quando uno se la prende con te senza che tu gli hai fatto niente, ti sta chiedendo aiuto. Ti sta chiedendo aiuto. Questa mi piace. Adesso andiamo in musica, riflettiamo su questa cosa, chiediamo di riflettere anche ai nostri ascoltatori, ridiamo i numeri 333 180 94 94, SMS e WhatsApp, e invece 051 34 64 58 se volete intervenire in diretta. E io direi che, visto che si parlava di questo, un bel David Bowie con Blue Jean ci sta bene, va? Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue Jean, she got a camouflage face on her mind. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, is heaven really sweeter than torniamo in diretta, perché a me mi sono rimasti un po' di dubbi. Dubbi. Degli irrisolti ancora, non siamo arrivati in fondo, ecco. E dicevamo, trovare il modo di non rispondere ad aggressività con aggressività e assorbire l'aggressività altrui. Certo, cioè sapere, bisognerebbe insegnarlo per esempio agli automobilisti, a quelli che frequentano gli uffici, a quelli che sono allo sportello di una banca, così, cioè sapere che quando uno se la prende con te e non gli hai fatto niente, ti sta chiedendo aiuto. Cioè ti sta dicendo sopportami, non ti sta dicendo ce l'ho con te, ti sta dicendo sopportami, ti sta dicendo sono un essere umano che ha bisogno di sfogarsi perché gli è capitata una sfiga, no? Cioè se le persone riuscissero a mettersi in empatia con gli altri in questo modo e a capire che significa quello, che non significa che ce l'ha con te quello. Però la mia domanda è questa, perché a me un paio di volte è capitato di, in maniera molto spontanea, non perché l'avessi pensato, di assorbire questa cosa e in effetti ti trovi davanti a uno sguardo smarrito che non capisce più la situazione e si placa di suo perché non ha la reazione che si aspettava in un qualche modo, ovvero la risposta. Non solo perché non ha la reazione che si aspettava, ma anche perché la sua aggressività viene accolta ed è proprio quello che gli serve. Ecco, però io mi domando, la persona che magari non è uno psicologo, un professionista, eccetera, eccetera, che magari sente questa empatia e ha imparato in qualche modo per il suo percorso a assorbire, assorbi, dopo un po' diventa una sorta di pentola a pressione che deve sfiatare da qualche parte. Certo, ma questo... Fava dello psicologo? No, il problema è... quanto frequente è quanto è frequente incontrare persone che lo sanno fare, perché se ce n'è solo uno a Bologna, quello dopo un po' scoppia. Tu hai perfettamente ragione, cioè se in mezzo al traffico bolognese io vado in mezzo al traffico bolognese, tutti gli altri automobilisti mi insultano perché si devono sfogare, non ce l'hanno con me e io li capisco, chiedono aiuto, no? Dopo un po' io scoppio. Il problema è quanti ce n'è in giro di questi, cioè in questo caso è uno di quei casi in cui la quantità equivale alla qualità, fa la qualità. Allora la tua domanda, ma secondo te c'è un modo perché una società cresca senza far dell'utopia, senza far dei massimi sistemi, cresca con tutti gli individui in grado di avere la propria spugnetta di assorbimento piccola? È possibilissimo, basterebbe porsi un obiettivo minimo alla portata di tutti, 5 minuti di pazienza per l'aggressività altrui tutti i giorni, tutti 5 minuti. Se per 5 minuti tutti riuscissero ad attuare quella regola, che quando uno se la prende con te senza che tu gli abbia fatto niente sta chiedendo aiuto e tu l'accogli e tu non te la prendi, se tutti lo fanno per 5 minuti basta. Dai, lanciamo una sfida radiofonica. Lanciamola. Poi ci raccontate com'è andata. A coloro che sono in ascolto, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, chiediamo da qui a mercoledì prossimo di dedicare 5 minuti a questa cosa qua. Esatto. E poi magari ci raccontano la prossima volta com'è andata, cosa è successo. Certo, hanno fatto certo, perché io sono convintissimo, tu hai stai avendo adesso un'ottima idea. Se tutte le radio invitassero i loro ascoltatori a sopportare gli altri per 5 minuti, cioè quelli che se la prendono con loro senza che gli abbiano fatto niente, no? E la frequenza, la probabilità con cui ognuno di noi incontra persone che attutiscono la sua violenza è molto molto più ampia, e l'aggressività pubblica è la tensione per la rabbia pubblica si attenua. Arriva un messaggio. Ma se chi è nervoso e se la prende senza motivi con altri, ma una pugnetta in più, no? Scusa il termine, ma il messaggio è questo. Potrebbe essere utile anche quella. Diciamo che le vie del Signore sono però infinite. Però così gli lasciamo, cioè gli diciamo la rabbia è un problema tuo, risolvitelo. Sì, più o meno. Infatti. Il messaggio è questo. No, ma sono tante le vie, la pugnetta è una delle possibili vie, cioè ci sono tanti modi per allentare la tensione. Un modo per allentare la tensione è di gratificarsi un po', no? Allora, io non direi solo la pugnetta, ci sono tante cose. Uno si gratifica un po' e allenta la tensione, no? Quando uno è arrabbiato si dà qualcosa, si fa un premio, si fa una carezza, si dà qualcosa che è anche lo scarico delle tensioni di un atto masturbatorio, d'accordo? Però non basta, perché perché c'è uno specifico allentamento della tensione, che tu non ti puoi fare una pugnetta quando ti incazzi perché un altro se l'è presa con te senza che gli hai fatto niente. No, non è una reazione. Mi sono magari. Potrebbe essere carina. Magari non lanciamo, come dire. No, ma diciamo che lanciamola prima delle due. Questa non va lanciata. Ecco, la prima delle due l'abbiamo lanciata. E io continuo con il messaggio che dice, infatti era esattamente, che risponde un po' a quello che dicevo io. Perché deve diventare un mio problema? Se non faccio l'assistente sociale avrò i miei problemi da gestire. Certo, però il problema è che a forza di fare così, ognuno resta prigioniero della sua vita. Cioè tutti noi viviamo in un mondo in cui la tensione per la rabbia che c'è in giro, per esempio quando tu vai in mezzo al traffico, non è che tu, o assistente sociale o no, tu hai un'influenza sull'aumentare o sul diminuire della rabbia complessiva. Hai un'influenza, quindi non c'entra che tu sia assistente sociale, dovrebbero imparare tutti. Tutti quelli che producono rabbia dovrebbero imparare. Perché la rabbia complessiva dipende da quanto ognuno ne produce, no? Perché poi si somma, tu vai in mezzo al traffico e c'è. E quindi dopo diventa un problema tuo. Diventa un problema di tutti. Sì, anche perché sennò. Cioè, voglio dire, noi facciamo questa trasmissione proprio per capire a livello di comunità, in questo caso comunità radiofonica, fatta di persone, eccetera, eccetera, come si può intervenire sulle crisi. E come andare oltre. E in fondo un altro mondo è possibile, dicevano. No, ma questo abbiamo detto tante volte, certo, dalle nostre frequenze su vari fronti, anche su questo vorremmo dirlo. Ma questa cosa qui però è di una banalità estrema, cioè se ciascuno desse il suo contributo, 5 minuti al giorno di bontà, 5 minuti al giorno di sopportazione, 5 minuti al giorno di solidarietà, 5 minuti al giorno di comprensione dell'altro, 5 minuti al giorno di altruismo, il mondo cambierebbe. Arriva un messaggio, lo leggiamo, vediamo come chiudiamo oggi. Aspetta, che si sta ancora componendo piano piano. Sacrosante, parole bellissime, ma non rispecchiano, a mio avviso, il livello intellettivo della massa. Questo non c'è dubbio, è esattamente quello che stiamo su cui stiamo ragionando. Ma io però tendo a considerare che sia vero, cioè che ci voglia sia un processo educativo. Che ci voglia un processo educativo. Certo. Però penso anche che siano delle cose che vengono anche spontanee. Cioè penso anche che non è detto che sia il livello intellettivo l'elemento fondamentale. Il problema è se tu, come dire, ti metti in una certa ottica. È una cosa di una semplicità estrema. Tu dici dalle 9 alle 9:05 sopporterò. Non ci vuole un livello intellettuale di chissà quale tipo, no. È solo avere lo stimolo e lo spunto di provare un esperimento. Vabbè, noi lo esperimento l'abbiamo lanciato. Dalla pagina di Amici di Rivivere su Facebook ci arriva, io ci sono, sfida accettata. Quindi chi sta in questo momento gestendo la pagina di Amici di Rivivere ci comunica che Amici di Rivivere è con noi su questa sfida. Ah, ti leggo questo messaggio di Manu. Concordo con Francesco, ma siamo proprio sicuri che gli altri e come si sentono non sia affare mio di essere umano? Rimanendo in tema, salutereste Nicola, un mio caro amico arrabbiato perché è malato a casa? Grazie, certo che salutiamo Nicola. Salutiamo Nicola e se facciamo per caso, i nostri due minuti. E se Nicola se la prende con noi, noi per cinque minuti lo sopportiamo. Poteva anche telefonarci appunto, e insultarci appunto, per cinque minuti. Ma comunque ma comunque forse lui si è fatto sopportare dalla sua amica, la quale sua amica si fa sopportare da noi, quindi si può fare anche la catena. Bene, allora ripeto la sfida: 5 minuti al giorno da qui a mercoledì prossimo. Se proprio proprio non ce la fate, 5 minuti al giorno, non 5 minuti un giorno sì, un giorno no. No, 5 minuti al giorno. Minuti al giorno, sono alla portata di tutti. Poi vediamo se per caso lo fanno in tanti. Poi informiamo il sindaco che rilevi la quantità di aggressività nella città, se cambia l'atmosfera. Un po' come le centraline Sara per l'inquinamento. Va bene, dai, lanciamo questa sfida. Poi magari la prossima volta ci raccontate nei vostri 5 minuti che cosa è successo. Proprio esatto. Gli episodi. Ci piacerebbe provare questa cosa. È anche un modo per partecipare, coinvolgervi e andare oltre. Io a questo punto, Francesco, sono le 14.00. Quindi direi che diciamo che Siamo arrivati anche oggi. Siamo arrivati. Io vado a sopportare i miei 5 minuti. Vai a sopportare, bravo, anch'io. Va bene. Quindi io adesso vado anche in sigla. Che cosa ne pensi? Ciao a tutti. Ciao, buona ciao. Giornata, a mercoledì ciao. Prossimo. Ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.